abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Arriva il fischio dell'arbitro Bastien, arrivano anche i fischi sull'Italia dallo stadio di Reggio Emilia. Il primo tempo contro Israele si conclude per 0-0. Parte un po' della nostra filosofia, perché possesso palla in Italia non è gradito, c'è poco da fare, se lo fa la Spagna e fanno 100 passaggi a 2 metri di distanza tutto lo stadio applaude. In Italia purtroppo non abbiamo questo tipo di apprezzamento e quindi abbiamo dovuto cercare alcune volte anche di forzare la giocata per cercare di andare anche incontro ai gusti del pubblico. Due avversari su di lui, Candreva va sul fondo, incrocia la parte opposta, il colpo di testa di Immobile e passa in vantaggio all'Italia, che ha cominciato bene il secondo tempo e trova il gol che potrebbe sbloccarla innanzitutto da un punto di vista psicologico. Sembra che sia una sorpresa il fatto di dover andare tramite i playoff, è semplicemente una normalità che se avessimo fatto un risultato importantissimo in Spagna avremmo ribaltato una normalità. Ragazzi, siamo italiani, eh? Alla fine ha ragione chi dice una volta tanto conta soltanto quello che sta scritto sul tabellone alla fine della partita. Italia 1, Israele 0, ottavo minuto, Ciro Immobile. L'Italia che comunque acquisisce il diritto a sedersi davanti all'uscio che porta ai mondiali. Ok, purgatorio, camera d'attesa, quello che volete, però si va ai playoff. Cioè quello che grosso modo tutti ci aspettavamo, no? All'inizio di questo girone con la Spagna. Poi possiamo fare tutte le critiche che vogliamo. A me fa impazzire Buffon quando, mordendosi 100 volte la lingua, la canta e la suona la città del tricolore che fischia. Ciao Pierluigi Pardo. Buongiorno, come va? Benissimo, hai sentito Gigi? Mi è piaciuto tantissimo. Sì, se però, la Spagna a fare 2 passaggi di 1 metro, 10 passaggi di 1 metro la apprezzano, noi non possiamo farlo perché la città del tricolore non apprezza e ci fischia, allora dobbiamo andare in verticale e magari rischiare qualcosa e sbagliare. Mi piace. Sì, però onestamente far passare il primo tempo di ieri come una bella prestazione di tiki-taka. No. No, ecco. Tiki-taka tu te ne intendi. Ieri, sì, no, vabbè, ma non è questo. Cioè, ieri abbiamo fatto una partita modesta, abbiamo portato a casa un buon risultato, ed è una cosa importante. Ha ragione Ventura quando dice che il secondo posto è la normalità. Quindi io ti dico, cerchiamo di essere equilibrati. Secondo me siamo dove stiamo, non è un ad oggi, se uno guarda la classifica del girone, siamo nella posizione dove era più probabile che fossimo, certo, la prima al momento del sorteggio, quindi ci aspettavamo, chiaro. Però ecco, da qui adesso poi a difendere il primo tempo perché ieri però non dimenticare, no, nessuno vuole difendere niente, però ci troviamo ai primi di settembre a giocare una gara, l'Italia si trova a giocare una gara con una tonnellata di pressione sulle spalle perché tre giorni fa ha preso gli schiaffi dalla Spagna, quindi ieri era la situazione d'emergenza. Assolutamente, ma infatti emergency medical aid, quindi chiami l'ambulanza, arriva, ti soccorre 1-0, bombola dell'ossigeno e vai in playoff, giusto? Sì, e l'abbiamo detto anche ieri in fase di presentazione della partita che c'era questo tipo di rischio, perché comunque la mazzata contro la Spagna era arrivata forte, quindi era quasi impensabile che non ci fossero ripercussioni psicologiche. Detto questo, insomma, dirti che io sia felice di come ha giocato l'Italia ieri, ma chi non può esserlo? No, nessuno è felice. Portiamoci questi 3 punti a casa. Ma, ti ripeto, ha ragione il mister quando dice che stiamo dove dovevamo stare, su questo non c'è dubbio. Nel senso che la vera anomalia, in qualche modo, è quello che diceva anche Tanecchio l'altro giorno, è che nello stesso girone ci siano Spagna e Italia. Questa è un'anomalia. La Spagna è più forte di noi e giustamente si qualifica per prima. Questa non è maniera regolamentare. Poi sai, con adesso chiamo Cruciani, possiamo parlare una giornata intera di chi, ma io appoggio chi merita di andare ai mondiali per diritto acquisito, e sono d'accordo perché il mondiale è una grande competizione internazionale che vale un sacco di soldi, quindi tutti vogliono le squadre forti con storie e tradizioni. questo no, è no, c'è un girone con bellissimo ed equilibratissimo con Ucraina, Turchia, Croazia e Islanda, dove non c'è diciamo nessuna squadra di grande tradizione, cioè il meccanismo del ranking secondo me non è quello giusto, andrebbe corretto con dei parametri che raccontino anche la storia dei paesi. Quindi io questo lo dico a prescindere dal fatto che ci conviene in quanto italiani, che il girone con Spagna e Italia fosse un girone di ferro, non credo ci siano discussioni. Siamo appunto dove meritiamo di stare. Adesso giocheremo da testa di serie un playoff contro la squadra più debole di noi, certo. Lì ovviamente avremo un po' di pressione, no, ma poi se, diciamo, se dovessimo uscire Dio non voglia lì, vabbè, ce lo meritiamo, ma ce lo meritiamo, certo. Alla fine anche lo sport è meritocratico, come sappiamo tutti. Poi possiamo discutere fino a domani di questioni regolamentari, sono d'accordo con te. Questo sistema è grosso modo inaccettabile. Poi però mi trovo a leggere la classifica di quello che è un campionato vero, cioè le qualificazioni sudamericane, e allora lì Brasile, Uruguay, poi ne parliamo pure, 8-0-0-24-0-0-24, c'è l'Argentina con Messi e compagnia cantante che è a rischio, Brasile, Uruguay, Perù, Argentina, e poi fuori ci sono Cile, e scusate se è poco, Paraguay, Ecuador, Bolivia e Venezuela. Quindi forse per loro è pure più difficile, anche se io credo che in un campionato vero com'è quello delle qualificazioni sudamericane, poi sai, è una maratona a differenza di uno sprint con un girone I valori dovrebbero venire fuori, è sorprendente che a poche partite dalla fine l'Argentina sia in quella situazione, poi ne parliamo. Sì, poi ne parliamo certamente, adesso rimaniamo sull'Italia. Com'è migliorabile questa squadra, oltre che dal punto di vista della condizione? Perché ti ripeto, facciamo la tara a tutto quanto, anche ai fischi della città del Tricolore, perché ci sono stati meritati e quello che vuoi, però ci troviamo sempre i primi di settembre con il nostro andamento lento, comunque con le nostre preparazioni ritardate, ad affrontare degli impegni importanti. Guarda, è migliorabile con, secondo me, la razionalità e qualche scelta un pochino più logica, un pochino meno... Tipo? Meno azzardata, tipo? No, tipo, puoi anche. Io non sono contrario all'idea di fare il 4-2-4 in assoluto, magari non con la Spagna al Bernabeu, ma voglio dire, è il tipo di modulo che ti consente di avere in campo la maggiore quantità di talento, però lo devi preparare, devi avere una squadra che è nella condizione fisica e mentale per poter gestire le complessità di un modulo come quello, che sono essenzialmente il fatto che in mezzo al campo rischi di andare spesso in inferiorità numerica. Quindi è migliorabile in quel modo. Secondo me oggi, ma insomma è facile parlare dopo, è chiaro che un modulo diverso ci avrebbe dato più copertura, ci avrebbe dato più sostanza nel mezzo, anche banalmente un 4-3-3, cioè anche banalmente un centrocampista in più e un attaccante in meno, tenendosi un attaccante eventualmente a disposizione. No, poi per... Pierre, facendo anche i conti con tutti i problemi di cui abbiamo detto, cioè in questo momento bisogna anche essere sgamati, come dicono a Milano, e fare i conti con l'oste e dire: siamo in situazione di emergenza, non siamo prontissimi, copriamoci un pelo di più e poi per il bello ci sarà tempo. Assolutamente. Sergio, buongiorno, provincia buongiorno, di Perugia, come buongiorno, sta? Buongiorno, senta, buongiorno, io volevo proprio intervenire sul discorso che adesso ha fatto Pardo. Ventura, che io stimo come allenatore, è andato al Bernabeu con 4-2-4, con dei giocatori fuori forma, cioè quando sappiamo che la Spagna soffre il centrocampo fitto. Bastava andare giù con una squadra più coperta e probabilmente avremmo vinto la partita. Amico mio, sono oggi che giorno è? Mercoledì, sono 4 giorni che lo diciamo, più o meno, no? E devo dire che non lo so, insomma, se avremmo vinto la partita, francamente, mi sembra... Vinto è tanto, però... Ti ricordi cosa ha detto Pier? Ti ricordi cosa ha detto l'altro giorno Giuseppe Cruciani, che è intervenuto con noi, è stato con noi e aveva ragione da vendere, quando dice: contro la Spagna difendi il risultato, difendilo, vuoi vincere? Arriva un quarto d'ora alla fine sul 0-0, poi vediamo, poi lì allora a quel punto puoi anche fare come faceva Mourinho, accatastare tutte le punte. Guarda, là davanti, mi ricordo Nerozzi l'altro giorno, un po' di giorni prima della partita, quando è intervenuto Nero, e ci diceva questo, che lui, che stava seguendo la trasfera di Coverciano, aveva proprio la sensazione che tutti i vari senatori azzurri che avevano parlato in quelle ore avevano una indicato questa strada, questo tipo di traccia, cioè una partita accorta con la speranza, magari a 20 dalla fine in partita, di piazzare il colpo definitivo. Cioè questo tipo di progetto tattico secondo me c'era nella testa. Poi c'è stato l'infortunio di Chiellini, Ventura si è fatto prendere dalla dalla voglia di provare, di sperimentare, e noi lì per lì l'abbiamo considerato un atto di azzardo, ma anche di coraggio, perché bisogna pure dirle le cose, se no diventiamo intellettualmente disonesti, anche perché uno spera in qualcosa, ma quell'atto di coraggio lì tu lo puoi fare se hai una condizione fisica e una preparazione tattica tale per poterlo supportare. Cioè, se tu vai a guidare una Ferrari a 300 all'ora, certo, ma il motore, come possiamo chiedere a Leo Turrini, il telaio deve supportare il motore, perché se il telaio non supporta il motore, il telaio si scassa, e quindi com'era quello spot con Ronaldo che faceva il Cristo del Corcovado? La potenza è nulla senza controllo. Traffico. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua. Tutti convocati. Cosa ti preparo? La tavola. Prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin nel banco freezer. Vi presenta. Convocati. Allora, ringraziamo il nostro attore Giorgio De Luca Colpaccio. Sorpresona Michele Uva, direttore generale della Federcalcio. Buongiorno, signor direttore generale. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono venuto fuori da una riunione UEFA per qualche minuto. Michele, ti lasciamo allora, signori della UEFA, però prima ti chiediamo tre cose io e Pardo. Allora, io vado secco. Secondo te si è esagerato con le critiche di Aventura? Anche l'accoglienza di Reggio Emilia, i fischi, la città del tricolore non hanno aiutato? Senza alcun dubbio, si è esagerato, sono assolutamente contrario a questo approccio autolesionistico, perché penso che Ventura, come la federazione, come tutti i giocatori e tutte le parti coinvolte, lavorino tutti i giorni per far bene. Siamo un popolo sensibile di commissari tecnici, e quindi ognuno c'ha il suo schema, ognuno c'ha le sue convocazioni, però quando la maglia giovane scende in campo il fischio non è giustificabile. È vero, Pier? Ma sì, ne parliamo da giorni, sicuramente, anche se la delusione è stata forte e la prestazione non è la stessa, ma questo non è in discussione. No, volevo tornare alle parole di Tavecchio di qualche giorno fa e a quello che dicevamo qualche istante fa. È pensabile che in futuro ci possa essere maggiore, diciamo, rispetto della storia e della tradizione delle nazioni, perché un girone con Spagna e Italia, al netto del fatto che la Spagna è più forte di noi, siamo d'accordo, però insomma un girone con Spagna e Italia è abbastanza assurdo per la storia anche recente di queste due nazionali. Sì, Michele, fai qualcosa lì nella all'UEFA. Facciamo qualcosa. Sto facendo qualcosa alla riunione della commissione in cui sono, del National Tech Competition Committee, che poi dedicata a questi argomenti. Io non voglio né che diventi, come giustamente dicevi tu, non deve diventare un alibi su una partita che abbiamo perso e probabilmente, come hanno visto tutti, meritatamente. È vero che bisogna rispettare la storia, però è anche vero che bisogna rispettare i regolamenti vigenti, e da tanto, ma io l'ho portato all'attenzione che in cui si chiede che i coefficienti, i ranking vengano rivisti, certo, vengono adeguati, certo, sapete, certo, tutti che il coefficiente UEFA è diverso dal coefficiente FIFA, sono due calcoli diversi ed è già di per sé una cosa non coerente, perché fai un europeo, c'hai un ranking, fai il mondiale, ce n'è un altro. Bravo, quello FIFA è FIFA in modo particolare, che tiene conto delle gare amichevoli che spesso vengono utilizzate dagli allenatori anche per provare nuovi schemi, nuovi giocatori, quelli entrano nel calcolo FIFA. Quindi l'idea è quella di spingere affinché siano calcolati solo le gare ufficiali, essendo anche poi le gare amichevoli in grande diminuzione, almeno in Europa, con l'introduzione della prossima National League che sarà presentata nel mese di ottobre. Senti, che vengano considerati i risultati veri e propri, perché insomma comunque è vero che noi negli ultimi due mondiali siamo andati male, ma è altrettanto vero che a livello di europei abbiamo avuto comunque delle prestazioni più che dignitose, perché siamo arrivati in finale all'europeo di Polonia-Ucraina e abbiamo fatto comunque un buon europeo. Michele, io ti chiedo, scusami, Michele, ti chiedo allora se è possibile pubblicamente davanti o meglio nelle orecchie di moltissimi italiani, te lo chiedo in maniera confidenziale, Michele Uva si può spogliare dei panni del direttore generale della Federcalcio e di tutte le cariche che hai, anche quelle che stai insomma evadendo per un attimo per parlare con noi? E io sono d'accordo con il mio amico Giuseppe Cruciani quando dice che esiste anche un diritto naturale nel pallone, quindi ci sono delle nazioni e delle nazionali che, è brutto dirlo, è antidemocratico, però ai mondiali e agli europei dovrebbero esserci quasi per diritto. Spogliarsi è chiaro che sono so, ti faccio una domanda. Ho fatto un giro di parole, adesso rientro e c'ho di fianco il mio amico, sì, collega dell'Armenia e quello della Georgia, e poi vaglielo raccontare, io penso che lo sport sia fatto giustamente di storia, ma anche di risultati, di appeal, di passione, di persone, è un misto di tutto. Io capisco tutte le posizioni, le accetto, poi bisogna trovare una linea comune. Sono d'accordo anche ovviamente che i titoli mondiali devono pesare, però capisco anche che il titolo mondiale che abbiamo vinto nel 34 e il 38 non ha lo stesso peso di quello vinto nel 2006, giusto? Quello del 2006 è più reale, però senza entrare nel merito, rimetterlo in linea, essere reale, anche perché la nostra federazione, noi non perdevamo una gara di qualificazione da 56 gare. Ti sei tolto sulla cravatta, dai. L'ultima domanda. Vai, che è questa. Ho sentito l'altro giorno da vecchio dire che in caso di apocalisse, sottoscrivo, la federazione insomma si tutelerebbe nelle forme, nei modi. Che cosa significa questo? C'è un contratto con Ventura? Che tipo di situazione c'è lì? Ma no, con l'apocalisse chiaramente è un termine che il presidente ha utilizzato e bisogna chiedere a lui come, perché poi non è che possa interpretare le sue parole. Certo, l'Italia non è mai stata fuori da un mondiale, ma purtroppo io cerco sempre di essere positivo. Lavoriamo affinché non sia fuori dal mondiale, ma lavoriamo tutti insieme, chiunque, ma anche voi che date, no, spazio a me per poter esprimere queste parole, perché l'Italia è un paese di passione, è un paese di calcio, non può stare fuori, però dipende anche dalle performance sportive e quindi dalle partite che faremo nei playoff, che dovremo vincere e portare. Un fallimento è chiaro che porta sempre delle conseguenze, certo, possiamo parlarne dopo metà novembre, certo, e non prima, certo, perché prima vorrebbe dire veramente avere anche un approccio negativo a un evento sportivo che abbiamo già vissuto come Italia, questo è giusto, no? Abbiamo già vissuto i playoff per la qualificazione mondiale, l'abbiamo affrontato e l'abbiamo vinto, e come lo faremo adesso? Certo, amen, però io con quella parola apocalittico, insomma un forte da usata da vecchio, io sono abbastanza d'accordo, perché sarebbe veramente... apocalittico, catastrofico. Fate voi un'Italia senza un mondiale, senza l'Italia, e un'Italia senza mondiale con tutto quello che ne comporta. Un'ultima cosa, Michele, poi ti lasciamo andare a compiti importanti. Rientrare Agnelli a capo dell'ECA. Beh, penso che sia un giusto riconoscimento a un bravissimo presidente, un proprietario, un bravissimo manager che ha fatto della propria società un punto di riferimento internazionale, e molto più in Italia è molto più legato alla squadra del cuore. A livello internazionale, che io vivo, la Juventus si è presa come grande modello, come lo è il Bayern, no? Per l'amor di Dio, il Bayern, come lo è il Barcellona, il Real Madrid o il Manchester City. Quindi è un riconoscimento anche alla capacità di una persona come Andrea Agnelli, e riconoscimento comunque anche al calcio italiano, perché se poi alle spalle non c'è un sistema che funziona, e in queste ore diciamo che la Lega di Serie A non sta facendo un grande spot, bisogna cercare di arrivare alla fine, però siamo molto contenti, il riconoscimento d'Andrea è corretto e il riconoscimento della Juventus anche. E voglio chiarire, già che approfitto, già che è una trasmissione bella, simpatica, a cui partecipo, non dice queste parole, non vengono da un tipo solo della Juventus. Certo, questo sia chiaro, va bene. Michele, allacciati il primo bottone della camicia, rimettiti la cravatta. Fatto. Ringraziamo il direttore generale della Federcalcio, che adesso torna a sedersi nel board dell'UEFA, dopo che l'abbiamo sottratto di lì ai suoi compiti istituzionali per un momento. Io credo che a molti abbia fatto piacere questa intervista, a me a Pardo compresi, no Pierluigi? Assolutamente, buona riunione. Sì. Grazie Michele. Per l'invito e buon lavoro. Ciao. Allora, adesso vorrei parlare con un po' di ascoltatori, magari qualcuno che ha fischiato ieri sera la nazionale a Reggio Emilia, sarebbe interessante. Tra l'altro poi a Reggio Emilia torneremo, già non adesso, perché adesso parliamo con un ex CT, una superstar come Giampaolo Montali. Ciao. Ciao Giampaolo. Ciao. Buon pomeriggio a tutti. Senti, dal tiro al CT sei allenato, no? Hai fatto il bersaglio in vari paesi. Sì, ma beh, io devo dire che sono abbastanza fortunato, perché quando uno vince, tutto sommato, è meno c'è bersaglio. Poco da sparare, eh? Esatto. Io sono fortunato, infatti i miei amici mi chiamano Gastone, per questo motivo. Sicuramente. Lo chiami Gastone anche tu? No, io lo chiamo Giampaolo. Tra un attimo parliamo anche del weekend fantastico che c'è stato a Courmayeur per la Ryder. Volevo capire se c'è un consiglio da dare ai commissari tecnici sotto tiro nei momenti difficili. Non ne hai avuti molti in carriera, però qualcuno ce l'hai avuto pure tu. Sì, e che sì, si no, fa in quei momenti? Quando i giornali tipo cischi. La cosa più importante, io i giornali li leggevo sempre. Sai perché? Perché credo che la vera fortuna di un'organizzazione siano i dubbi del capo, cioè i dubbi è il proprio capo, in questo caso se il senatore di una squadra nazionale, chi li fa venire? I suoi collaboratori, li fa venire a volte i suoi giocatori, ma anche i giornalisti. Sai quante volte io mi sono fatto venire dei dubbi su idee, su proposte, anche su critiche. Quindi io leggevo sempre tutto, ero veramente il grande problema dei miei uffici stampa, perché il mattino alle 8:30 io volevo avere sempre la rassegna stampa pronta, sia quando facevo il CD ma anche dopo, nel calcio. Questa cosa qua ha un po' destabilizzato l'inizio, quando ero a Roma. Alle 8:30 volevo leggere tutto, quindi secondo me non vuol dire, non bisogna isolarsi, bisogna leggere. Bravo, bisogna essere equilibrati, prendere le critiche quando ci sono e vederle dal punto di vista costruttivo. Ecco, l'unica cosa quando le critiche sono ad persona e non sono basate su dati oggettivi. Però anche questo ci sta, cioè quando tu fai allenatore di una nazionale, che sia di calcio, di pallavolo o di basket, che sono sport molto popolari, devi sapere insomma qualche rischio ci va incontro. Però bisogna essere sereni, perché essere allenatore nazionale è un privilegio secondo me, e certo, quindi bisogna assolutamente essere più oggettivi possibili e essere lucidi, perché altrimenti se perdi lucidità perdi di competenza. Certo. E se perdi di competenza questo va a discapito dell'organizzazione. Questo dedicato a tutti quelli che i giornali io non li leggo, ma perché non sai leggere, non o perché metti la testa sotto la sabbia. Ryder Cup, dimmi di Ryder Cup. Ma Ryder Cup mi ha avuto così un esempio del lavoro che stiamo facendo anche Pierluigi, che è stato con noi 3 giorni sulla retta del Monte Bianco. Abbiamo dato inizio a questa Road to Roma, saranno 11 anni straordinari in cui cercheremo di portare questo sport su tutto il territorio nazionale, da nord a sud, ed è per questo che abbiamo iniziato da Valle dei Templi, punto più a sud del paese, fino a quello più a nord, la vetta del Monte Bianco. Abbiamo finito tutta quella che era la fase più burocratica, è stato un anno vissuto un po' pericolosamente, abbiamo portato a casa tutti i risultati, quindi adesso lavoriamo giorno dopo giorno per far diventare questo uno sport per tutti. Sì. Giampaolo, la cosa che mi interessa di più e che ti vorrei chiedere è far capire, non abbiamo molto tempo, ma insomma, i benefici del famoso turismo col fischio, perché questo è il vero tema. Insomma, è chiaro che poi più gente si tessererà o si appassionerà, come è successo a me per esempio negli ultimi mesi, ovviamente tanto di guadagnato, ma la cosa veramente bella è che arriverà tanta gente, già sta arrivando, perché per esempio i dati che ci dicevi l'altro giorno del Marco Simone sono straordinari, stanno arrivando già tantissime persone da fuori che vengono, spendono, consumano, vanno nei ristoranti, fanno shopping, certo, vanno negli alberghi, perché la cosa fantastica, caro Genta, del golf è che tu hai la possibilità di giocare sui campi veri, cioè se io e te vogliamo andare a giocare al Madison Square Garden a basket con altri 8 non ce la facciamo, al Bernabeu con la nostra storia di calcetto no, e invece il golf, e questo fa sì che tu che si arriva la gente, oltretutto coi soldi, che passa la sua vita in vacanza per il golf, o no? Ma difatti il vero indotto e anche il vero motivo per cui il governo ha sostenuto questo progetto è per l'indotto turistico, golfistico. Vi faccio un esempio, pensate che la città più visitata in Italia è Roma. La media del turista che si ferma a Roma è 2,6 giorni. Il turista golfistico che si sposta per andare a giocare a golf rimane 4,8 giorni, esattamente più del doppio. Quindi questa cosa qua è fondamentale, cioè, e l'altra cosa importante è l'aspetto che diceva prima Pierluigi, cioè cosa succede? Succede che chi vuole vedere la finale del mondiale di calcio non sogna, non pensa mai che poter andare a giocare su al Maracanã oppure andare a giocare a San Siro oppure una finale di Olimpiadi nel basket. Nel golf invece questo è possibile. È possibile che tu vai a giocare su quel campo dove si è giocato la Ryder Cup oppure l'Open d'Italia. Senti, io ho un sogno, te lo confesso, ma un giorno lo realizzeremo insieme. Fai venire Michael Jordan. Golfista, top star, e quel giorno lì mettiamo Pardo qui in studio al posto mio e io vengo da te una volta nella vita, me lo prometti? Sì, io te lo prometto, se riesco a portarlo, però poi gli facciamo un'intervista a due voci, perché sì, voglio intervistarlo anch'io, perché è il mio mito, perché è il vincente. Tu Pardo zitto vieni qui. Tu conduci da studio una volta nella vita, io vado con Giampaolo Montani e Michael Jordan e noi facciamo questa intervista. Facciamolo condurre, scusa. Aggiudicato, sono presente. Culo che non sei altro. Ciao Giampaolo, grazie. Ragazzi, buon lavoro. Ciao, ci fermiamo per la borsa, torniamo. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Rondon non controlla, spazio a destra per Cordova, messa male l'Argentina, dall'altra parte c'è Murillo, tutto solo, riceve palla, Murillo! L'Argentina è sotto al Monumental! Acuña, testardisce anche lui, è molto veloce, sfrutta una scivolata, Acuña entra in area, arriva anche Acosta, il cross per Icardi! Eccolo, Mauro Icardi pareggia i conti e segna il suo primo gol in nazionale! Questa è una bastardata, ragazzi, considerato il mio cuore dichiarato albiceleste. È una bastardata, però noi albiceleste siamo quinti, Argentina naturalmente, siamo quinti in classifica nel campionato sudamericano, che è tanta roba, dietro, lo dicevo prima, a Uruguay, Colombia e Perù. Alfonso, provincia di Padova. No, io ringrazio l'ascoltatore che mi scrive un messaggio delicatissimo e lo accontenterò volentieri al 349-238-6666. Mi scrive a proposito, Carletto, 5 minuti sulla Italia di basket, ce li fai dedicarli? Sì, l'abbiamo fatto anche l'altro ieri con Charlie Calcati, lo faremo anche dopo. Stai tranquillo e grazie per il Carletto. Alfonso, buongiorno. Sono qua, buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Allora, niente, volevo intervenire sulla nazionale perché ieri sera mi ha molto deluso e devo dire che sono molto preoccupato anche nell'eventuale spareggio, perché se ci presentiamo con una squadra con queste condizioni non credo che riusciremo a passare facilmente. Secondo me il modulo non va, cioè questi giocatori sono i migliori che abbiamo, però Ventura non riesce a sfruttarli al massimo. Secondo me bisogna cambiare qualcosa, mettere un 4-3-3 o potenziare il centrocampo, perché altrimenti non, così come siamo messi in campo non andiamo da nessuna parte, ecco. Sì, ma volevo sapere Pierluigi, la vostra opinione. Sì, gliela diamo subito. Pierluigi, ti ricordi più o meno, io ho perso il conto, ma quando saranno gli spareggi grosso modo? E gli spareggi sono a novembre. Sorteggio 17 ottobre, spareggio a novembre. Manca un filo di tempo. Non è che li giochiamo domani. Io non sono così preoccupato, io sono preoccupato dal fatto che comunque su 180 minuti, no? Cioè più tu accorci il tempo, più è possibile una sorpresa, ma io penso che noi siamo superiori a tutte le avversarie che potremmo affrontare. La più pericolosa ad oggi mi sembra la Svezia, mi sembra che siamo più forti e quindi dobbiamo rimanere calmi, dobbiamo rimanere lucidi e fare un passo alla volta. Da questo punto di vista condivido quello che diceva Uva prima, cioè non dobbiamo scavarci la fossa da soli o metterci delle paure o essere sarebbe assurdo. Detto questo che queste due partite d'Italia siano state di basso profilo è indiscutibile, non c'è da girarci attorno. Che Ventura debba lavorare su altre soluzioni secondo me è altrettanto vero, e poi insomma poi ce la giochiamo, ripeto quello che dicevo ieri, e abbiamo nel 98, nel 97 quando abbiamo superato la Russia non è che abbiamo vinto 4-0 e 4-0, abbiamo passato il playoff. Bravo, vero. Era una ricrezione di regione dopo l'Inghilterra. Ma è quello che ti dico io, ieri sera a Reggio Emilia contava, al di là della poesia e della filosofia, quanto stava scritto sul risultato alla fine: Italia 1, Israele 0, ottavo minuto del secondo tempo immobile, punto. Sì, ma anzi, adesso abbiamo sentito l'Argentina. Il calcio di nazionale è un calcio difficile, è un calcio, certo, se possibile, ancora più liquido, difficile, più e diverso. Sì, difficile, esatto, e diverso. Pensa all'Argentina col potenziale offensivo che ha, che ancora sta lì che annaspa, che rischia di non passare. Poi secondo me andrà al mondiale, però questo sta avvenendo oltretutto in una, con una formula, come dicevi giustamente tu prima, molto più veritiera, perché tu praticamente giochi è un campionato sebbene anacquato dal tempo, quindi e che a poche partite dalla fine ancora ci siano dei dubbi e dei rischi è abbastanza incredibile, considerato il potenziale che ha l'Argentina. Quindi calma, ci vuole calma, la calma non significa diventare intellettualmente disonesti, non significa dire che ci è piaciuto quello che abbiamo visto. È stato brutto e siamo anche onesti, intellettualmente onesti, e diciamo che a novembre è un altro film, perché lo sappiamo benissimo, anche per la condizione dei giocatori, per mille motivi. Professor Dottor Marco Bernazzo, buongiorno. Buongiorno a voi, ragazzi. Allora, definire aggettivo catastrofico usato da Tavecchio l'altro giorno, era catastrofico? Apocalittico e integrato, tutti. Sì. Definire in termini monetari, economici. Consideriamo il fatto che un onesto cammino nella competizione, quindi arrivare, non so, agli ottavi, ai quarti, ti assicura alla federazione 20-25 milioni in premi. Già ti dà l'idea di quello che può essere, insomma, il mancato accesso poi alla fase finale della rassegna ridata. Incide meno nell'immediato sugli sponsor e su altro, perché i contratti sono stati già firmati fino al 2018, però poi vorrei vedere chi dopo il 2018 corre a sponsorizzare con l'Audi assegni la nazionale. Bravo Marco, ma io sono molto curioso di fare una domanda a loro signori, uno espertissimo di ogni materia applicata al calcio, che include i numeri, e l'altro da commentatore principe. Ma allora parliamoci chiaro, ma io non riesco a fare questi conti, ma un mondiale senza l'Italia, senza il Brasile, senza l'Argentina, senza la Germania, senza l'Inghilterra, senza l'Olanda, senza la Francia, vado avanti? Quanto vale? Quanto vale? Perché accanisce un effetto, no? Come dicono dalle tue parti, Berinazzo. Beh, considera che per esempio i diritti TV del Mondiale 2018 sono ancora disponibili per l'Italia e chiaramente varranno un decimo di quello che normalmente si paga se non c'è l'Italia, no? Sì, poi è difficile fare un discorso globale, no? È difficile fare un discorso globale, però i mondiali, diciamo, valgono quasi l'80% del bilancio della FIFA, parliamo di qualcosa che va oltre i 3 miliardi. Mamma mia, quanto 3 miliardi? Io non ci arrivo, sì, come contare le stelle? Venendo meno tutti questi player di prima fascia, significa che vengono meno anche tutti i rispettivi mercati televisivi e quindi tutti i rispettivi, certo, Marco, mercati di sponsorizzazione. Cioè, parleremo di un disastro. Forse il motivo per cui, per non aver dubbi, Infantino vuole mondiali a 48 squadre. Sì, però, secondo me non ha torto, cioè fa il giro del mondo. No, e poi Pierluigi, ma tu ti immagini, vai a commentare il mondiale, non ci sono queste squadre, ma dai, devi imparare i nomi dei giocatori. Il ragionamento è pericoloso, Carlo, cioè il punto, secondo me, ha ragione Uba, cioè il punto non è quello di stabilire per decreto con il lodo Cruciani che nell'America's Cup ci devono essere sempre una serie di squadre. Sei sicuro di questo? Sì, sono sicuro di questo, penso che sia assurdo il ranking, in particolar modo il ranking FIFA. Il discorso degli amichevoli è assurdo, è ridicolo, e secondo me poi si potrebbe anche inserire questo meccanismo qui, lo potresti anche inserire percentualmente, cioè la storia delle nazionali potresti anche inserire percentualmente del ranking. Io quello farei il posto blindato per le prime 6-7 squadre al mondo, secondo me è è eccessivo, perché è giusto che lo sport sia meritocratico. Quindi, sì, però guarda, il miglior spettacolo sportivo in Europa oggi è l'Eurolega, che ha posti fissi assegnati e che insomma sono quelli, e ci vanno le grandi squadre, quelle che hanno la possibilità, hanno il denaro, eccetera. Quindi anche su questo, secondo me, parliamone. 800240024, Beninazzo, Pardo, torniamo dopo il traffico. Convocati. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta Tutti Convocati. Allora Marco, torniamo per chiudere il discorso che facevamo prima con Pardo sul valore del mondiale, commentare un mondiale senza queste grandi squadre. Parliamo un attimo di Federcalcio prima di salutarti, perché vuoi dire mai che la Federcalcio avrà un legittimo titolare? Quanto tempo è che Beretta si è dimesso? Ho perso il conto, scusa Marco. Beh, diversi mesi, parliamo della presidenza. No, forse Lega. Anni, forse qualche anno. Beh, diciamo che Beretta aveva dato la disponibilità di lasciare il suo mandato un paio d'anni fa, forse, vado a memoria, tre o quattro volte comunque da tanto tempo, però non riuscendo le squadre Serie A ad eleggere il nuovo presidente, insomma, è rimasto in carica per almeno un paio d'anni, salvo appunto poi aver lasciato l'incarico l'anno scorso. Come sappiamo poi l'incapacità dei club di trovare un accordo sul nome di chi doveva guidarlo, soprattutto sulle regole della nuova Lega, con questa utopia di avere un manager come nelle altre Lega, che da noi è un'utopia, cosa che ha portato allo stallo, al commissariamento da parte del presidente della FIGC Savecchio, e con la necessità adesso di trovare una quadra, un accordo che sembra essere passato, come ci raccontano le cronache di politica sportiva del calcio, dall'ulteriore accordo per portare Agnelli alla presidenza dell'ECA. Ecco, che ne pensi alla presidenza di Agnelli alla presidenza dell'ECA, ricordo, associazione, non è una parolaccia, è associazione dei club europei. Beh, devo dire che Agnelli ha lavorato bene insieme a Rummenigge, che è stato, possiamo dire, delfino di Rummenigge in questi 4-5 anni, hanno preso molte iniziative corrette, come per esempio lavorare per assegnare all'Italia 4 posti sicuri in Champions, cosa che avverrà dall'anno prossimo. È evidente che ora si cerca un cambio di passo, e devo dire il plauso di tutti gli altri dirigenti del calcio europeo a questa elezione, insomma, fanno ben sperare che le idee di Agnelli riformatrici e innovatrici sul play finanziario, per esempio, sulla necessità di mitigare la crescita dei grandi club, sono idee che sono corrette, anche perché si ispirano ad alcuni principi dello sport americano. Certo. Si parla molto di competitività, di un numero maggiore di squadre, non di questo oligopolio che ormai domina il calcio europeo. Insomma, le premesse ci sono, poi vedremo come si tratta di tradurle dalle parole ai fatti. Tu sai come la penso, e io sono favorevole a quella direzione che porta verso la Superlega, il supercampionato per club, l'Eurolega, tanto per essere chiaro. Beh, diciamo che se non verranno fatte nei prossimi 2 anni tutta una serie di riforme che sono auspicate, almeno a parole da tutti, quello può essere sicuramente un approdo. Ma io, che guarda, ti dico la verità, l'economia me lo auguro, del Marco, calcio a spingere. Sì, ma io ti dico, me lo auguro, perché la corrente va in quella direzione, è inutile nuotare controcorrente, perché poi sappiamo come ti porta via. Grazie Marco, alla prossima. A presto. Allora, andiamo un po' di corsa, perché abbiamo 3 minuti, 2 ascoltatori, un paio di voci da fare sentire, una delle quali l'ho promesso a chi mi ha chiamato Carletto affettuosamente, nazionale di basket ieri dopo una sconfitta tutto sommato indolore. Messina, Ettore Messina, CT, e poi sentiamo anche Melli, una delle star, se si può parlare di star in questa nazionale che, di basket, che agli europei gioca come una squadra. Credo che abbiamo fatto un buon lavoro in difesa, perché comunque abbiamo tenuto la squadra a 60 punti, anche se comunque abbiamo fatto degli errori stupidi, però in attacco non ci siamo mossi bene, non abbiamo mosso bene la palla, abbiamo tirato malissimo, abbiamo meritato di perdere, cioè non c'è molto da dire, sono stati più bravi di noi, basta, adesso dobbiamo resettare e pensare domani subito. È brutto, devo dire, che andiamo in spogliatoio, abbiamo una opportunità di parlare, un'opportunità di calmarci, un'opportunità di riflettere, andiamo fuori e facciamo un quarto da 9 punti. Però è andata, ragazzi, non è, cioè, è andata, domani Giorgia, cosa vuoi fare? Cioè, se facciamo adesso stiamo qua a fare i processi, vuol dire ci mettiamo in ulteriore difficoltà domani. Questo è Ettore Messina, siamo passati, dunque abbiamo passato il turno nonostante la sconfitta di ieri, oggi giocano a Giorgia, una partita che, diciamoci la verità, non conta nulla, però conterà per Messina tantissimo conoscendolo, tantissimo dal punto di vista dell'atteggiamento che avranno i nostri. Scommettiamo. Roberto, provincia di Treviso, tra l'altro terra di basket, se ce n'è una. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io vorrei esprimere due concetti, mi lasci esprimere per cortesia. Ma prego. Faccio il notaio, però abbiamo un minuto e dieci secondi. Non perdiamo solo tempo. Il primo è sull'idea della meritocrazia che è lei. Se ragioniamo come dice lei, l'Olanda e la Polonia del 74 non so quando avrebbero partecipato ai mondiali. Secondo, se come diceva Pardo i gironi non sono ben distribuiti, se noi fossimo abitati su gironi con Turchia, Irlanda e Croazia non so se passavamo il turno. Terzo, il 4-2-4 di Ventura è un'idea di prospettiva, ma se andiamo in mondiali con 4-2-4 la vedo male. Perché sì, troveremo allora, squadre molto più forti. Allora Roberto, finisco perché 27-26, dica. Nei gironi troveremo squadre che corrono e poi se passiamo il girone troviamo squadre molto competitive. Allora, grazie a lei Roberto, molto, molto gentile. Io rispondo invece molto sinteticamente, coi se e coi ma, a tutte e tre le domande non si fa la storia. Non l'ho detto io, Grazie a Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Ci sentiamo domani tutti convocati alle 14. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!